Se nella diretta poteva mettere anche la diretta di France 24, ma ha detto di no. Ma io sono a tipo 800 km da dove sta bruciando tutto. Sì. Secondo te questo è un alibi? Cioè, sono più o meno alla stessa distanza da voi che da Parigi. Eccoci! Finalmente in... No, non è vero. Un momento solo. Eccoci! No. Incredibilissimo, siamo in diretta. Adesso. Con la maledizione di Katta, atto 14, e vi ricordiamo che ovviamente siamo Tycoons & Dragons e ci potete seguire sui nostri canali social di Tycoons & Dragons e RGDR. In onda quest'oggi con me da Bologna, da Giacomo Vecchi, abbiamo Stefano Gamberoni, Giulio Bosi, il Master, Rico Cattabriga, e poi abbiamo da Rimini Luca Lazzarini. Batti un colpo. E invece da Marsiglia tornato, è molto vicino a Parigi, tornato nella sua patria d'adozione. Io mi sento così dementi, però purtroppo lo sono, cioè, più o meno come Bologna vicino a Taranto, no? Tornato nella sua patria d'adozione abbiamo Edoardo Saladini. Manca con noi oggi Francesco Arcidiacono, che salutiamo e che sta guardando Game of Thrones. 17 giorni, 20 ore, 22 minuti e 47 secondi. Salute. Oddio, salute. Grazie. Va bene. E... Vabbè, dai, iniziamo con... Ah, la sigla, devo far partire. Aspetta, veramente fai il riassunto? No, dai. Faccio sparare quella. Ah, ma sì, spara quella. Non puoi, ti ricordo. No. Non ho capito. Ma perché dobbiamo andare all'abbazia? Perfetto. Al 5. Io mi sento già nell'abbazia. Una volta prima mi ha livellato. Giulio, vuoi fare il tuo riassunto? Ok, Che sarei il protagonista di questo. No, facciamo metà e metà. Uno fa. Stiamo dicendo che dividiamo il video. È vero. Va bene, dai. Ricordiamo allora che nell'ultimo episodio. Split the party! Il party si è splittato. Sì. Esatto. Dai, prima voi. Dopo aver incontrato il nostro ben amato Strad in quel di Vallachi. E dopo averlo convinto che era. Cosa hai bisogno? Da prendere? Qualcosa che scrivi. Datemi qualcosa che scrivi. Il sangue, lo so. E dopo averlo convinto che la sposa porta sfortuna a vederla prima del matrimonio, l'abbiamo rimandato a casa, ha detto che ci avrebbe il giorno dopo il suo caro figlio Radi. Ha detto che vi aspettava a casa sua. Lui ci aspettava, e però mandava il suo figlio Radi a... Che sarebbe stato lì tipo 10 minuti dopo. Ha detto che sarebbe dopo. Arrivato a breve. A breve per prendere. Così si è arrivato in carrozza. Delle ore, praticamente partivamo. E comunque è passato più di un'ora e non è ancora arrivato. Non si è arrivato tra due ore. Anche noi siamo partiti da Gran Carriera verso l'abbazia di. Ha detto che era tra due ore. Insieme a Irina Koljonovic. Noi non andiamo alla cieca, noi sappiamo cosa. Abbiamo recuperato Casimir, l'elfo che è stato bandito dagli altri elfi della sua tribù. Perché non l'hanno voluto ascoltare. E siamo partiti, quindi arrivati però praticamente al bivio per andare, diciamo, a questa abbazia, perché c'erano due strade possibili. Esatto, a quel punto il buon vecchio Atanas ha deciso che non era, non sapeva da fare, e quindi ha fatto marcia indietro per Vallachi con intenti misteriosi. Dopo aver avuto uno scontro sul ponte con dei lupi. No, noi dopo. No, noi eravamo già andati. Loro già andati. Già ce l'hanno avuto con il lupo mannaro. E loro ci hanno lasciato. Ecco, insieme a Atanas sono andati Baer, il chierico, avido di sangue. E come tutti i chierici. Come ogni buon chierico. E anche il lipsterino Race. Effettivamente dobbiamo anche. Che non c'era, però ho deciso con quello di andare con lui. E un po' cieca, però in effetti ha senso. Adesso ha tutto più senso, vero? Mannaggia. Dai, nell'altra compagnia c'è Irina. Cioè. Sì, no, chi è più sexy, Irina o Atanas? noi, noi siamo, abbiamo proseguito verso l'abbazia. Che altro Irina è causa dei problemi. Cioè, anche io in un certo senso. Con loro che ci avevano detto. Però io li risolvo anche. Con loro che ci avevano detto andiamo in città a recuperare il medaglione. Magari quando avrò ucciso Strat. E ritorniamo. E ritorniamo, aspettateci dopo 3 giorni, vabbè. E io invece dissi che fa il culo, non vi aspettiamo. No, io dissi è follia, morirete e siamo andati. E perché il mio personaggio è ingenuo e non sa che Giulio si allena con il buon vecchio Strat. Con Strat. E quindi io, tanto Arci è venuto con noi, quindi Sceo e Arci siamo andati insieme a Irina e il resto della truppa. Siamo stati assaltati prima da dei lupi, poi da dei licantropi. Abbiamo visto in lontananza la torre dove dovremmo incontrare in teoria il bardo di cui non mi ricordo. Rectavio. Che volevo uccidere in Rectavio. E abbiamo proseguito. Siamo stati attaccati infine da dei licantropi per salvarci. Cogliolo ci ha deciso di sacrificarsi, anche se in realtà il buon vecchio, non mi ricordo, Arci, Casimir, no. Arci come si chiama? Arci è Pak. Aveva in realtà creato forse abbastanza cavalcature per salvare anche lui, ma lui ha deciso comunque di sacrificarsi per garantirci una fuga più agevole. Dopo aver visto sua sorella spattaccarsi nel fango cercando di cambiare cavalcatura in volo. Vabbè, insomma, comunque è stato eroico e si è ammazzato. Togliendosi dai Cogliolovic, secondo me sarebbe potuto anche rompere qualcosa. E quindi con questo c'è un nuovo Guinness dei primati. Chi perde due fratelli in 2 giorni? No, è la stessa notte. No, è la stessa notte. È l'arco di poche ore. È l'arco di poche ore, di fatto, sì. Ma fratello, quindi noi adesso stiamo andando verso l'abbazia pensando che i nostri ex compagni di niente, lo siamo dell'abbazia, siano andati in città per prendere il medaglione e tornare indietro. Siamo tutti fratelli, bro. E infatti. E invece, infatti. Io, Byron e Ray siamo tornati indietro, siamo stati aggrediti da un lupo mannaro che è stato sconfitto sorprendentemente con facilità. Sì. Soprattutto grazie a Byron che ha sparato. Dato di culo quella di stavolta, dai. Siamo arrivati in città. Infatti stavamo già pregustando di farci mordere per diventare tutti lupi mannari. Già visto, basta. Però è morto senza fare niente, non è riuscito neanche a uccidere il cavallo su cui io stavo sopra. Nonostante lui fosse saltato sopra il cavallo dove c'ero io, ha attaccato il cavallo e non l'ha ucciso. A noi erano andati i lupi mannari d'elite. Hai guardato la scena. No, hai provato a sparare ma hai mancato. Sì, hai sparato una freccia. Me lo so, sai che io non ho un arco. Infatti l'hai presa e l'hai lanciata, cioè col braccio. Per quello non ha fatto niente. Ma sai che io non ho armi a distanza. Come non hai armi a distanza? Te le danno di base. Vabbè, però. Hai preso una freccia e l'hai lanciata. Cioè proprio. Ok. Comunque siamo entrati in città dopo aver ucciso il lupo mannaro. Siamo entrati in città e la città praticamente è deserta, tutto spento, non c'è nessuno in giro, non si sente niente. Siamo andati alla casa della vecchia, abbiamo detto chi eravamo, ci siamo fatti aprire, la vecchia ci ha accolto, abbiamo preso il medaglione. E adesso ho chiesto ospitalità e di fatto stiamo dormendo aspettando Radi, cioè stiamo riposando aspettando che ci comunichi quando Radi arriverà in città. Ok. Beh, quindi c'è metà della compagnia che corre all'impazzata. Salutiamo Marco Bosi che ci sta guardando in diretta o ci stava guardando in diretta. Grande torto, sbaglio. Beh, lo sai. L'ho detto io. Fatto condividi. E quindi c'è metà della compagnia che corre all'impazzata scappando dai lupi mannari per salvare la dolce donzella. E dall'altra parte c'è chi dorme in una villa lussuosa. Sì, in realtà noi ci stavamo riposando mentre voi eravate rincorsi dai lupi mannari. In realtà noi soffriremo più di voi perché noi sopravviveremo e diremo no, saremmo voluti morire con loro. No, oddio, rimorsi. Ci immagino. Vabbè, ci ho provato. Va bene. Direi che siamo più o meno aggiornati. Siete andati da casa di Lady Vactor e lei vi ha consegnato il ciondolo, il medaglione che io ho dato al chierico, visto che è roba sua. Esatto, che l'ha guardato un pochino e ha riconosciuto questo potente antico simbolo sacro. Le ho anche letto la storiella che c'è dietro, ma lui non avrà ascoltato. Era tipo di una paladina che andava in giro a uccidere i vampiri con questo simbolo. Sostanzialmente non sono il corvo io. Il suo nome, il simbolo. Ah sì, beh, okay. Che si chiama così. E guarda Lorenzo, guarda la trasmissione. Se poi c'è un commento che non vedo. Marco De Santis. No, perché gliel'ho appena linkato. Marco De Santis, Salla, leccami una palla. Quindi se per piacere puoi compiacere i nostri telespettatori, te ne saremmo grati. In diretta? Magari però oscura la telecamera. Vabbè, gli ho linkato e Marco l'ha perso. Allora. Sì. Ma eravate già arrivati nell'abbazia, no? Quasi. Sono ancora a... In teoria dovrebbe mancare poco. Una cosa come mezz'ora. Una cosa come mezz'ora. Allora, temporalmente mi sa che siamo noi. Nel frattempo, infatti, suona il campanello di casa Vactor. Zimbiando. Sono in casa mia, quindi io continuo a dormire. Voi effettivamente non ti ho dato possibilità di scelta. Lei vi ha offerto ospitalità e vi ha detto che vi avrebbe fatto chiamare quando il suo sgherro avrebbe avvistato l'arrivo della carrozza. Tu ovviamente sei libero di accettare. Ah, magari nelle due ore che abbiamo vi dico un attimo. Se avete tempo per prima. Allora, all'inizio pensavo di uccidere Radi, ma in realtà non siamo nelle condizioni di farlo. Ma chi è Radi? È troppo simpatico. È il tirapiedi di Strad. L'elfo che c'ha... Bene, mi stavo già arrabbiando dicendo cagatemi, avevo il microfono spento. Solo due ore o riusciamo a fare la notte di riposo? No, abbiamo... solo quello che conta. Se tu decidi di rimanere a letto, sì, ma basta, dipende. Allora, io con Radice posso anche andare a parlare da solo. Decidete voi. Dormiamo? No, sorprendete perché io avevo cancellato gli incantesimi e li rimetto, se no li recupero tutti. No, no, abbiamo due ore, però io posso parlare da solo con Radice, non è un problema. Se rimanete a dormire, okay, non c'è problema. Se vi svegliate e andate, bisogna vedere cosa fate. Cioè, no, non so qual è il piano, tipo, abbiamo provato a prendere Irina, ma c'è scappata. No, il piano a grandi linee è cercare di guadagnare tempo, perché secondo me la fuga con Irina è dichiarare a Strad che siamo suoi nemici. E non sapendo dov'è sto cazzo di tempio, non avendo una minima idea di su cosa fare, in pratica, visto che questi vogliono lasciare Irina lì e poi spararci nelle montagne, essere... No, questa è un'idea solo sua. Essere, diciamo... sarebbe essere cacciati dai servi di Strad ad ogni angolo. Ma secondo me Vez spera di... Con molte poche probabilità di arrivare a un tempio che non abbiamo la minima idea dove sia. Quindi l'idea, più o meno, era guadagnare tempo dicendo finora ti abbiamo servito bene. Va bene. Pensa, potrebbe essere una buona idea sposare Irina all'abbazia. Va bene. Perché tu non puoi entrare, ma come ti abbiamo già dimostrato, noi possiamo porre... cioè, robe del genere, insomma. Decchinando. Va bene. Vabbè, dai, diciamo che si va tutti a Notre Dame. Esatto. Allora, il però campanello poi chiedi se invia voi a recuperare Irina. Il campanello suona. Alla porta c'è il tirapiedi di Lady Vactor. Sì. Però mi piaceva questo schermo. Ma lascio intanto già questo. Va bene. Che entra e va nel vostro alloggio a dirvi è arrivata la carrozza. Ok. Io, vabbè, diciamo che nel riposo breve recupero un po' di vita. Ah sì, fatto il riposo breve, l'ho fatto sicuramente. Andiamo. 9, 18, 22, 26. Hipsterino si perfetto. Trasformava in iride. Due cazzo, poi mi stupra. Letteralmente. Ok, io ho usato due dadi e recupero quasi tutta la vita. E poi recupero tutto quello che devo recuperare. Oh, strano. Se anche l'altro è stato full, avrei potuto provare a uccidere i radi. No, posso. Sicurezza. Avremmo provato, non è detto. No, perché sennò mi immaginavo tu da Irina con la tua voce che provavi a fare quella. Oggettivamente di c'è chi ce l'hai. Io prendere come vero talento. Io mi preparo e scendo. Ok. E ti dice la carrozza è ferma di fronte alla casa del barone. Ma è bruciata. Sta piovendo. Ha capito, mi hanno dato fuoco. Lavoro, effettivamente. Un po' sarà bruciata comunque. Sicuramente danneggiata, certo, ma le mura esterne sono ancora in piedi. Alle muse ci stai guardando. Ah, non ho fatto un buon lavoro. Ma meglio è per te. Oppure ti avvicini alla casa, fai così e cade in piedi. Mi piace essere venuto al casetto perché volevo vederti. Piove ancora? Sì. Miss you so much. Beh, cosa facciamo? Andiamo da Radi che è davanti alla casa mezza bruciata del borgomastro o diciamo di farlo venire qua? Boh, la tizia cosa dice? Che possiamo fare il cazzo che vogliamo a casa sua? La di Vaktar, possiamo usare casa tua come ci pare. Oh sì, certo. Sì, certo. Meglio. Sì, mio padrone. Vedi che tutto suona meglio. È più facile. Sì, padrone. Sarei onorato. Bruciatela. Tutto l'aiuto di cui avete bisogno. Possiamo bruciarla come ci pare. Sono neutrale. Appena neutrale di fatto possiamo usare casa tua come ci pare. Sì, ma certo. Certo. Il lato oscuro. Perché sì, ma quanto spamma per Notre Dame. Ah, ok, allora può mandare il suo servitore a dire a Lord Radi che io aspettiamo qui. Tuo amico? No, mio cioè, amico. Ah, sì. Cioè, no, di Vaktar ti dice, io sì, certo, lo io sono suo amico. Il servitore però non sembra tanto contento perché si caga un po' sotto. Sarai ricompensato. Non ci sarà una ricompensa se mi succederà qualcosa tanto grande da ricomprarmi un nuovo signore. Posso ucciderti io qui adesso o puoi andare? Ma cos'è? Ma che detta legge? Posso ucciderti come mi fa? Sì, ma non è la sua servitù in teoria, è quella del... Lady Vaktar l'ha istruito e lui però è riluttante, io... Cioè, push, parliamo cioè. Di andare a chiamare uno che è tipo 100 metri più in là. Oh, Lady Vaktar. Mi stai minacciando? No, un consiglio. Oh, il servitore fa il grosso, eh? No, è importante, cioè, se puoi andare. Perché hai temi per la tua incolumità, scusa? Lord Radi. Guarda, servi tu parte della casa. Lord Radi è una persona ragionevole. Ho capito, non è mica 300, cioè, lui porta il messaggio, poi sì, non è che sì. Deve morire per forza. Tanto Lord Radi deve passare qui da Lady Vaktar, perché devi istruirla su come governare la città. Questa è la mia estrapolazione. Ha detto che pensava lui strada, aveva detto che mandava un emissario. Preferisce farlo aspettare o parlare a chiamarlo? Cioè, è più pericoloso farlo aspettare. Poi piove. Appunto. L'ospitalità, no. Adesso Lady Vaktar è la padrona della città. Niente, è già morto. Cosa ho capito? Niente, Giulio si è perso. No, è già morto il servitore lì, sicuro. 3, 2, sta già perdendo i dati. Se devi passare dalla parte del male, fallo per bene. Perché non mi va di andare di prendere l'acqua. Che non vede l'ora di morire per fare un PC malvagio e rompere il cazzo. No, in realtà l'unico punto è che non mi va di prendere l'acqua. Che piove. È giusto come ragionamento. Non ci sono i portici. No. Bene. Se è questa, è così che stanno le cose, allora me ne vado. Esce sbattendo la porta. Sì, ma esce sbattendo la porta andando a chiamare, o esce sbattendo la porta perché mi tiro una pugnata alle spalle? Vuoi fare un insight? Non lo so. Faccio un insight. Se ti tiro la pugnata alle spalle, non l'ho visto. Due. Sta andando a chiamare. Ho fatto due. Vai tra. Lady Vartar, la sua servitù non è molto servile comunque. 3-4. Sta andando a chiamare. Aspettiamo. Vabbè. Aspettiamo. Per noi sta andando a chiamare. Aspettiamo che arrivi allora. Spero che Lady Vartar abbia, conoscendo la guardia, abbia un po' più intuizione su quello che in realtà è andato a fare. Lady Vartar è abbastanza delusa dal fatto che il suo servo, in realtà era un mercenario più il precisamente, suo servo. Comunque che servizio di merda. Sì, cioè, stai pagando. Si scusa con voi, però purtroppo quella, sarà meglio, signora mia. Per ottenere certi servigi bisogna rivolgersi a delle persone che non sono proprio raccomandabili. Vado io. Non ci sono più i mercenari una volta. No, vabbè, se non arriva tipo in mezz'ora, usciamo. Non andiamo. Arriva in mezz'ora. E vabbè, usciamo, andiamo. Ciao, bravo. No, col cappuccio, tanto. Poi appena scopro dove abita il tizio, gli brucio casa. Puoi chiedere un ombrello, comunque, vabbè. Ci sono gli ombrelli? Come si dice? No, non ci sono gli ombrelli. Non li hanno inventati. Arrivate davanti alla casa dove c'è la carrozza che vi aspetta. Aspetta che mi segno, ex servitore di Lady Vart. C'è la lista di gente che devo ammazzare. Cos'è? Arya Stark? Per ricordarmi. Più o meno, Arya Stark di Roma. Atana Stark. se no me li scordo, cioè ragazzi, è un po' di gente. Uccideteli. Conte strano, Conte strano. No, Conte strano si chiamava. Ma Radice c'è nella lista. Ernst Larnach. No, non ancora. Come si chiama? Ernst Larnach. Chi c'è nella lista? Ernst Larnach. Sì. Tutta la compagnia della vita. Beh. No, vabbè, poi c'è tipo il becchino, il bambino stupido, però tanto ormai quelli sono andati. Il becchino? Sì. Ah, ok. C'era anche il giocattolaio, ma poi ci abbiamo fatto amicizia. Però resta lì. Basta esistere per finire su queste lì. Eric il costruttore di bare. No, per esempio Radi che gli ha tolto... quello è best friend. Esatto, lui non c'è nella lista, quindi dipende. Perché lui dovremmo comunque scontrarci, quindi la gente che prima o poi dovrò scontrarmi non la metto, quella che mi scorderei la metto. Tanti strade non c'è, ma tu ci sei, sì. Esatto, è quello qua in piccolo. Non vorrei scordarmi. Bene, vi avvicinate e mentre lo fate vi sentite come se le vostre parti del corpo avvizzite pulsassero. C'è un sottotesto erotico? No, non c'è nulla di erotico. Vabbè, ma adesso sono molte meno di prima, perché un po' di punti abbiamo riguadagnati nel frattempo. Beh, io in realtà no. Chi più chi meno. Vabbè, io un po' sì, tipo due. Seduto sulla carrozza, nella posizione del cocchiere, c'è il vostro amico che vi guarda mentre vi avvicinate. In base a cosa? Beh, siamo normali, basta. Cioè, il master che indirizza così, c'è cioè il vostro migliore amico. Vabbè, è notte fonda. Siete in ritardo. È da molto che aspetto. Avevamo mandato uno dei servitori di Lady Vactar a chiamarla, ma... Qui non si è visto nessuno. Ma invece fino alla mia lista. A quanto pare non si può più sfidare dei servi. Sono venuto ad accompagnarvi al castello. Dov'è Irina? A proposito, in realtà in questo momento non invidio tantissimo la loro situazione. In questo momento attuale, Lord Radi. No, Serra Radi ha un titolo. Cioè, in casa c'è sarebbe il Chamberlain. Vabbè, era uno dei mastro. Radi. Un mastro, sì. Vampiro? Ah no, non è un titolo. No, non vampiro. No, scherzo. Lui no. Non ancora. In questo momento Irina è in viaggio. Ah. Per dove? Perché purtroppo, anche se pensavo il contrario, il paladino ha ancora quella sua attaccamento. Okay, si è perso tutta la tattica e ora diciamo è colpa di lui. Esatto. No, la tattica c'è, ma per ringraziarselo è colpa degli altri. Ah, ok. Hai visto Arci? Giusto. Funziona così. Io ero contrario. Capisco. L'abbiamo aspettata perché pensiamo che sarebbe scortese non andare a parlare con Strad. Avete fatto bene. Però se ora è una saggia decisione, noi possiamo metterci in cammino oggi stesso per andare a riprenderla. Oh, con quello vi metterete d'accordo. C'è con sua maestà. Seguitemi. Perfetto. Per favore. Easy. No, così non dovremmo stare a parlare sotto questo. Ironia, alla fine vedremo pioggia. E scende dalla carrozza. Tanto gli altri hanno pure Kevin, che sono nemici. Chi? Ah, l'elfo. L'elfo, l'altro elfo della. E vi farà strada attraverso Kevin. Le case di Vallachi. Perché Kevin? Vi porta alla casa del falegname di bar. Ah, la della lista di Giulio. Però si fa tempo di vedere. Non era morto. No, nessuno l'ha ucciso. Ah, non l'ho ucciso. Nella tua lista, cioè quasi, nel senso la tortura. Io pensavo che fosse morto. Io pensavo fosse morto. A meno che non è morto dissanguato per le torture. Il barone voleva giustiziarlo durante il festival. Ah, è vero. Ma non è stato proprio così. È vero. E hai rovinato il festival. La porta che ormai. Come mai questa fermata? Lady Vaktar credo ci stia aspettando. Oh, preferisco non disturbare altre persone, non creare troppo scompiglio. No, ma Lady Vaktar ci sta aspettando. Cioè, prendetegli le misure. Un altro. Lady Vaktar riceverà presto la visita di un diplomatico inviato direttamente da sua maestà. Come vuoi. Quindi. No, come vuoi, come vuole. Come vuole, grazie. Come volete. No. Ma lei non è qui. Come volessi. Il voi per Strad. Sì, io sono solo un umile servitore. Un umile lei. Adesso che siete al riparo dalla pioggia e siete più vicini a lui rispetto a quando eravate durante il vostro primo incontro, sentite più vi avvicinate alla sua persona come se intorno a lui ci fossero innumerevoli piccoli gridi, lamenti. Casa, una nina. Se andare a dormire così. Ma lui non sembra farci caso. Mi ricorda le nina nanne che mi raccontava. Esatto, sentite cantavo. Come le urla di migliaia di persone mentre vengono uccise. Vabbè. Più vicini avanzi. Oh no. Catassaggiare una. Fidati, poi ti dico cos'è. Sono molto buoni. Ma che cazzo è? Tipo pandoro fritto, no, con marmellata in mezzo. Infatti è un pandoro fritto nel burro. Infatti è una specie di droga. Sì. Infatti, tipo di quelli che arrivano a metà li ho mangiati. Sì, sì. È stato il dolce post grigliata. Sì, post Natale. Ah, no. Post Natale, sì, anche. In realtà a me non fanno impazzire, ti dirò. Ma ne mangio. No, ne ho mangiati solo due o tre dopo la grigliata. Cazzo, mi fanno proprio cagare, scemo, mi spiace. No. Conta che i fegatelli di maiale che non mi facevano impazzire ne ho mangiati 7. Non era buono. Guarda, quelli sono avanzati, li ho cestinati direttamente. Vabbè, ne sono avanzati 2. Può essere una sorta di portatore, del custode delle anime. Bene, allora, quindi vi dice: sono felice. Nonostante questa, non si vede niente intorno, però ci sentono. Non ci sai, cosa vuoi? È una curiosità. Curiosità, l'ho detto prima. Perché magari si vede a Denis. Lo scoprirai quando arriveremo con Rani. Nonostante il punto. La delusione per insomma questa scortese mancanza di questo ritardo lo sappiamo, ma alla fine un po' di attesa per sposare l'incarnazione di Tatiana. Dunque, voglio dire, tecnicamente non sa che lo sappiamo. Di lei di Tatiana, adesso lo sa. Di lei di Tatiana. Comunque vuol dire che... Inoltre un matrimonio dentro la cattedrale sarebbe molto più, secondo me. Pazzia. Di questo non dovete discorrere con me. No, vabbè, erano idee così, brainstorming. Capisco. E sono comunque felice perché vuol dire che la sacra legge di Barovia a volte funziona. Ma sì, sa che mi trovo molto bene. Cioè, ultimamente ho scoperto che di fatto... Non mi trovo male in questo posto, è come casa. E che le punizioni a volte hanno sortiscono il loro effetto e voi ne siete la prova. Spero di condividere col mio padrone lo stesso ragionamento, ma nel caso sono anche disposto a mettere una buona parola su di voi se fosse necessario. Grazie. Però il più lo dovete fare voi di vostra spontanea volontà, chiaramente. Chiaramente. Basta puntare. Baffa le statistiche, vuoi dire. Diciamo che potrei accorciarvi la pena in caso di buona condotta. Abbiamo comunque già dimostrato una notevole buona condotta. Infatti, senza voler peccare di presunzione. Infatti sono speranzoso. Infatti sono speranzoso e spero che il vostro colloquio vada a buon fine. Sappiate però che per ottenere qualcosa bisogna sempre dare qualcosa in cambio ed essere disposti a concedere anche una parte di voi stessi tipo per poter crescere e io ho delle reliquie se vuoi. Perché hanno troppe mani. E per poter aumentare. Lo dici davvero proprio... delle reliquie? No. Ok. Anche il proprio rinforzare il proprio spirito. Ok, ok. Bello. Ora vi porterò al suo cospetto. Ora è il nostro momento di ridere. Effettivamente, forse. Se avete dei ripensamenti, è questo il momento. No, sì, potete, ciao, potete venderci tranquillamente. Allora, ma altro fatto. Beh no, le reliquie in realtà sono, cioè, se lui le vede, sono un segno di lealtà. Io esatto. Parte della chiesa, cazzo. Adesso la chiesa non è più territorio protetto. Cosa facciamo? Facciamo split the party o andiamo a chiamare? Perché a chi manca? No, andiamo a chiamare il chierico. Lui è rimasto in casa a dormire. Potevo vivere tranquillo e non morire con voi. Ma infatti te basta che gli dici lasciatemi a dormire. Vabbè, se tu ci dici lasciatemi qui a dormire. Io voglio dormire. Esatto. Diciamo, noi siamo venuti qui, ma il chierico di merda. Buono il gelatino. E soprattutto potesse dire la relazione del chierico con Irina. È vero, il chierico sbavava dietro Irina. Secondo me se l'è fatta. Se l'è fatta in mezzo a un branco di lupi. Per non parlare del paradiso. È lui il peggiore. Ma no, perché io mi ripudiavo. Platonico. Lui è il vecchio bavoso che ha cercato di molestarla. Esatto. Detto questo, grandi. Cosa fate? Tu ti svegli, io dici lasciatemi dormire. Va bene, dai, dai. Se mi fa tornare. Se proprio, proprio devo. Possiamo dormire in carrozza comunque. Allora basta che si dorma, per lui è fondamentale. Beh, ora che arriviamo da strada è un riposo pieno. Vabbè, arriviamo da strada. Bello, che lui si proiettasse in qualche cazzo di posto. Bella, no, sì. Andiamo al castello. C'è ma castellissimo, andiamo al castello. Vabbè, andiamo al castello. È un momento di baffo questo. È il tutto per tutto, ci baffiamo o sì, no? Moriremo nel tentativo. Se doveste riuscire, in realtà così prendete tantissimo tempo. È positivo. Se lui in un giorno ha fatto dal in una notte ha fatto dal castello alla città. Ma non penso in carrozza. Sì, sì. Rado in carrozza. Il tempo non è tantissimo. Ma ci ha detto che ci aspettava a mezzogiorno, quindi saranno 10 ore di viaggio. Però se andate là, sono 10 ore, in più parlate 12. Con lui, magari lo convincete che voi venite a prendere Irina, ritornate per metà giornata dopo. Giornata piena, no, no, della siete qua. Siete 10. Sì, a piedi sono 13, quindi carattamente. Quindi ritornate da noi per prendere Irina sotto forma di vampiri. Esatto, a questo punto. Non è male comunque, alla fine c'è qualche controindicazione, però alla fine basta mettere la crema solare, stia sì. Qua c'è sempre la neve. Poi tipo, non puoi entrare nelle case. Qua c'è sempre la neve, qua c'è sempre la neve. Non puoi entrare nelle case, le bruci, sono anche abituato. Esatto. Cazzo, me ne vivo a Londra io. Giusto farsi la doccia è un po' complicato. L'acqua corrente. Però puoi fare il bagno. Puoi fare il bagno. Nel sangue. Va bene. Mi lavo, non è che c'era tante docce. Sì, appunto, chissà che profumo che emaneremo, cioè, esatto, a Rumenia di dove siamo. Tra l'altro sono giorni che camminiamo sotto la pioggia, sotto la pioggia. Ammazziamo la gente, vabbè, sotto capito, la pioggia. Ma non è che cioè, a parte quando, che quando fai le pause minimo saranno piogge acidissime in questo posto di merda. Piove talmente tanto, ormai è diluito. Non lo so. Dai, allora, tornate come farsi il bagno al barocco. Tornate da Radin che vi dice Radin. Rahadin. Ma indiano. Vabbè, Radi, io semplifico. Rahadin. Che vi dice. Come l'altro è Kevin, questo è Radi. Bene. Per questo viaggio non ci servirà la carrozza. Venite al piano di sopra. Bello. Ok. Ok, non guadagnate un cazzo di tempo. Fra 10 secondi siete davanti a strada. Ora. Ok. Vabbè, ma per tornare da voi, non è che ci teletrasporta all'abbazia. Oh sì. Oh sì. È utile. Oh sì. Ed eccoci all'abbazia. Ed ecco io. Sarebbe molto comodo. Ci porta al piano di sopra. Arrivate prima di noi all'abbazia. Arrivate che c'è tutta la città in fiamme. Oh cazzo, sono già arrivato. Lui tira fuori dalla tasca un sassolino di colore verde. Tipo anche mio zio li ha avuti, perché non beveva troppo. è doloroso. No? Poi passa. È ucciso. Di colore è importante, eh? Sta potente. Beh, sta birra è densissima, cazzo. Cosa stai bevendo? Petrolio. È una birra belga che ha gradazione alcolica 9 gradi. Verde, sì. Solo? Sasso verde. Che è? Di radi. Qual era il tuo dubbio? È un dubbio di traduzione o solo? No, non mi ricordavo il colore, però ce l'ho preso. Io ho una testa di bambino. No. E con un acciarino gli dà fuoco. Quando lo fa, ai suoi piedi si illumina un cerchio magico e vi dice: entrate e posizionatevi al suo interno. E Giulio chiede: come hai fatto a incendiare le cose? Voglio farlo anch'io. No, risplendono di luce magica in realtà. Che non gli ha dato fuoco al sassolino. Quando l'ha fatto, cerchio magico ai suoi piedi. Io prendo Isabella, guardo Isabella e entro nel cerchio. Io prendo la mappa di strada e faccio: questo che vuoi strada, cioè io questo che vuoi. Ok. Una volta che siete entrati. Cazzo, mi sono dimenticato di raccattare anche la mia bambola di strada dal giocattolaio. Un'altra cosa che devo fare. Prima di uccidere il giocattolaio. Signor Stad, ecco le sue. Non anche dopo. Sbriciola la pietra che tiene tra le dita e vi avvolge questo fumo verde che vi copre. Che odore ha? Uccide. L'odore di... Che odore ha la magia arcana, non lo so. Che odore ha? Diciamo, di idrogeno e di... Ozono. Esatto. Ben presto l'odore che sentite invece è quello... di umidità, come se foste insomma in una cantina o in una catacomba. Vi ritrovate in questa stanza di lato 30 piedi, una stanza quadrata, e con soffitti di alti 20 piedi. Al centro di questa stanza c'è un braciere di pietra che all'interno della quale bruciano le ceneri e il carbone, e nonostante la fiamma sia bianca e molto alta non produce calore e il riscaldamento non va molto bene. Intorno alla circonferenza del braciere ci sono 7 coppette, diciamo. E in ogni coppetta c'è una sfera di pietra quasi finita, fatta di un cristallo colorato. Non ci sono due pietre uguali. Sopra di voi c'è questa questa clessidra che è appesa 10 piedi sopra il braciere, sospesa attaccata al soffitto da delle catene di ferro. E tutta la sabbia è ferma nella porzione superiore della clessidra, come se qualcosa la bloccasse nello scendere giù. Alla base di questa clessidra, scritte luccicanti, ci sono le seguenti parole scritte in comune, quindi direi che tutti le potete comprendere. Base clessidra che non funziona. Allora, pensate, sono pure andato a cercare una traduzione per mantenere la rima di questa filastrocca. E io farò una parafrasi. Ok. Ci sono i fondi della birra. Però è molto ricca, quindi. Alle due estremità della stanza ci sono due statue di alte 9 piedi, statue di ferro di cavalieri a cavallo. C'è. E con nella posa, diciamo, di carica, con la spada sguainata, che si guardano rivolti uno verso l'altro, col braciere in mezzo, come se fosse la giostra che sta per partire ai tornei, in quel senso. O semplicemente sono due. Il mio approccio con le statue in questa avventura è stato prendere le armi alle statue e buttarle via. Allora, la scritta sbrilluccicosa al base della clessidra dice: lancia una pietra dentro al focolare. Viola, se sul picco del monte vuoi andare. Arancione, viola, picco monte. Arancione, se alla cima della fortezza. Rosso, se alla ricerca di conoscenza. Verde, dove sono celate le bare. Indaco, se dalla sposa del signore vuoi andare. Ma è così facile. Porca puttana. Ma sì. Quasi. Blu alla culla dell'antico arcano. Culla antico. Minchia il tempio. Giallo alla tomba del sovrano. Blu è il tempio. Quindi questo ha tipo la scorciatoia per tutti i posti. Praticamente. Sì, perché mandare a cercare lei? Allora io adesso divento un suo servo. Qualcosa mi dice che non manda. È bellissima sta cosa. Ma cioè, sì, tu lanci la pietrina e vai dove cazzo ti pare. Esatto, perché dobbiamo camminare? Saluta Jim. Perché? Scusa, ci sono delle pietre. Non ne vedete qua. Era diversa quella che ha usato lui. Ci sono dei cristalli. Ok. Sì. La tomba del sovrano sarà la camera di Strat. No, beh, la tomba può essere la sua tomba. E basta, non abbiamo indicazioni, non c'è anche Radi. Sì, sì, con voi adesso vi dice per favore seguitemi. Il problema è Linda, il poverezzo. Ne abbiamo ucciso un sindaco, non so. Mi raccomando, vi dice. Scusa, Vez, ma non ha senso. Se in questo posto, in particolare in questa stanza, non dovete toccare niente. Neanche il pavimento. Che ironia! Stanno già dicendo voglio rubare una cosa, una pietra. Perché lo volevo fare, ma quando stiamo uscendo. Diglielo tecnicamente. Anche per me. Straccione. Quella lo potete toccare. Coglione, bici. Allora, non toccare nulla eccetto la lampada e il pavimento. Ci ho pensato. No, hai capito che era il riferimento. Adesso sì, ma non ero collegato quando ho pensato a queste cose. E in questa stanza ci sono quattro porte. E lui vi porta nel 3 di fronte a voi e una dietro. E lui vi porta in quella più a destra. E là apre, c'è una scala a chiocciola che sale. Ma non si va prima con i cristalli? No, vabbè, saliamo le scale, non c'è problema. No, evidentemente non dovete andare in un posto che, in cui conducono queste cose. Peccato. Ma lì c'erano tutte le pietre da poter scegliere dentro ogni ciotola. Ma c'erano manciate o tipo una pietra per ogni ciotola. E salite per questa scala chiocciola interminabile. I vostri passi risuonano nell'oscurità. Ehi io. Fino a quando non arrivate. Madonna, quanto è complicato. Andiamo a lavorare. No. Arrivate. Dal Kundstrat. Qui. K36. Dicevo, però scusa, se lui ha una pietra per raggiungere in ogni momento Irina, non ha senso tutto quello che sta facendo. Il nostro lavoro è stato molto più facile del previsto. Come? Non può vedere Irina. No, però dice indaco per andare dalla dolce donzella, mi pare che dalla sposa del signore. Dalla sposa del signore. Sarà un posto preciso. Magari potrebbe essere anche il posto dove la tizia si è suicidata. Ah, probabilmente lui ha teletrasporti in tutto la regione, però poi, infatti è arrivato lì davanti. Poi in realtà lui ha delle mogli, no? Sì, ha delle mogli. E quindi potrebbe, le spose potrebbero essere le mogli. Sì. Salite di ben 3 piani. Vabbè, neanche tanto. A meno che non siano 3 piani sfalsati, cioè nel senso... Belli alti, insomma, camminate per un po'. E arrivate in questa stanza dove alla vostra destra si apre in una cupola molto grande. Mi ha detto non ne resterà niente. E la struttura è tutta in linea. Ci vedete. Come cazzo fanno a non riuscire a spegnere questa stanza con quattro grosse colonne che sopportano questo soffitto a cupola. E ci sono alcune torce che lanciano delle ombre. Ma molto... queste fanno caldo? O invece non sembrano normali torce che illuminano le facce di 8 gargoyle che sono inchinati verso infatti è perfetto verso il centro della stanza. Ma questa l'ha lasciata alla vostra destra, vi porta invece dritto davanti a voi dove c'è una porta di bronzo a due ante, molto pesante e finemente decorata. Vi apre queste porte e davanti a voi avete la visione di questa stanza rettangolare e la stanza da cena, dove c'è questo davanti a voi, questo tavolo, lungo tavolo di legno. Era il banchetto iniziale che dovevamo andare. Esatto, è ancora pronto. È ancora pronto, è lì che ormai sarà freddo, però Microonde riscaldato. Puoi mangiare il mio dolce. Sopra la stanza ci sono tre enormi lampadari di cristallo che illuminano la stanza magnificamente. E pilastri di pietra che sorreggono, che insomma stanno appoggiati a dei muri di marmo che supportano il soffitto. Centro della stanza c'è questo lungo tavolo di legno pesante coperto da una fine tovaglia di seta. E sulla tavola ci sono infinite delicatezze, cibi lussuriosi e estremamente ricchi. Anche della frutta e dei vegetali, sì, degli ortaggi, dei Vegetali. vegetali, Vegetali. vegetables. E in ogni postazione c'è una ricchissima. Ad ogni posto c'è una ricchissima apparecchiatura di porcellane e di argenteria. Però anche loro ricchissimi, quindi tipo super ingioiellati, tipo con dei vestiti. E ad ogni posto c'è un bicchiere di cristallo riempito con un liquido ambrato, con una fragranza Ambiotico. delicata e ipnotica, È grazie. ambiotico. Amniotica. Al muro opposto a quello da cui entrate, che parte dal pavimento fino al soffitto, un gigantesco organo. E appunto dalle sue canne Un cuore gigante. esce quello che si suona. Da queste canne escono come tuoni la melodia che sta intonando la figura che adesso vi dà le spalle. Megalomane. Sì, vabbè, cioè, vorrei anche vedere. Cosa dovrà compensare? La mancanza di Irina. La mancanza di Rita, piccola tutti così. Bell'immagine. Cos'è questo? Lui che suona di spalle. Carino. Ma ci sono anche tipo i corpi, ma sono statue o Sono sono stati, corpi? sì, è la decorazione di No, sono questo i vegetali. Organo. Adesso lo sono Natura diventati. morta. Natura morta. Natura non morta. La melodia va via via scemando in questo, mentre viene suonata magistralmente, questa musica così imponente e piena di La finta, passione. Che si fa 0-0. la colonna sonora per presentarsi. Esatto. Tan Tan tan tan. tan tan tan tan tan tan La musica finisce, il silenzio cala nella stanza e crolla il soffitto. No. Questa figura lentamente si volta per. A me è piaciuta, puoi ridere. Non l'ho Dai, era sentita, carina. no. Crolla il soffitto perché non c'è più la colonna. E quell'uomo era Steve Jobs. Non è Steve Jobs, ma è il Conte Strad con cui avete parlato Poche ore poche prima, ore in prima, realtà. quindi. Che delusione. Beh, Che siete ironia. arrivati in fretta. Peccato siate il numero piuttosto esiguo. Grazie Radin per il tuo prezioso servizio, come sempre. Puoi andare. Lui a Radin si inchina e sempre camminando all'indietro esce dalla stanza e chiude la porta. Beh, benvenuti, era da tanto che vi aspettavo per potervi finalmente accogliere come si confà ai genitori. A questi prodi avventurieri. Ditemi, come mai siete qui voi tre? Castori piccoli, tutti e tre. Amici dei bambini. Dei vampiri. No, dei vampiri. Immagina, adesso ci giriamo. Da dove sono finiti gli altri? Non erano con noi. No. Ah, non so. Ah, forse il portale non ha funzionato con tutti. Era un Radin è sempre, Radin è sempre stato con noi, quindi in realtà strano non sa nulla. Tu non sai lui che cosa sa. Per però, quello però, diciamo che è visto che l'unico a cui abbiamo raccontato è Radin ed è sempre stato con noi. Beh, diciamo che l'etichetta potrebbe suggerirti. Sei di... così tranquillo e non troppo. Parlate liberamente. Ringraziamo dell'ospitalità. Oh, ma dovere. Lord Strad. Siamo qui riuniti oggi per unire i matrimoni. Ah, beh, ok. Race e strada. Race e strada. Queste sono le alique. Era perfetto, se no. Ti camuffavi. Diciamo che dopo la sua il suo allontanamento dalla villa del barone, spettacolare. C'è stato una disquisizione, diciamo, una discussione su cosa fare. Oh, che peccato. Prende il suo calice. Ma è tranquillissimo. Ha una plomb, chiaramente. Cioè, ci tiene a farsi darsi un ma c'è la cosa dell'ospitalità che se mangio e bevo sono sano. Una volta era così. Puoi provare a mangiare poi tutto. L'ospitalità è sacra. Infatti vi ha preparato un'accoglienza. Cioè, prendo un chicco d'uva, lo mangio, lo mangio. E poi dico la verità e vediamo se mi uccide. Un sorso, posso un attimo? Se siete affamati, prego, avevo preparato tutto ciò per voi e anche per i vostri no, amici. No, perché nell'antichità in teoria l'ospitalità era sangue. No, so. Appunto dico, prova a mangiare e bere e poi gli dici la verità fatto, e vediamo. Prima mangiato e vi ho appena detto che siete ospiti, però servitevi, vi prego. Grazie, vabbè, mi rifocillo un secondo, ma giusto proprio... uno due polli 3000 calorie. No, due cose, due acini d'uva. Questo vino è particolarmente rosso. No, è ambrato. Il contenuto dei vostri calici è ambrato. Il suo è rosso. Sì, no, io il sangue che sta bevendo non lo bevo. Bene, non ce l'ha offerto. Per ora. Ne verrai fin troppo nei prossimi tempi. Quindi c'è stata una discussione. Purtroppo Lord Vardistra, cioè no, Sir Vardistra roba. Non ha definitivamente perso le sue vecchie abitudini, nonostante il massacro alla casa del barone avrebbe potuto far pensare altrimenti. Bravo. Però abbiamo pensato che fosse... Ho solo ucciso un fratello di Elide, corretto mostrare la stessa cortesia che ci è stata mostrata a voi. Inoltre abbiamo provato che comunque lasciato tutto il tetto. Sì, è una parte dietro. Per fortuna abbiamo fatto le foto a settembre. Ah, fatto, visto. Può bruciare. No, vabbè, la ricostruiranno. Cioè. Distrutto la Notre Dame, se ne fa un altro. Esatto. Beh, sti cazzi, cioè. Vabbè, si metteranno gli anni che gli servono, ma non li costruiranno. Vabbè, non è arrivato. Imbarazzante. E io, onestamente, non non ho intenzione di oppormi ulteriormente alla vostra, cioè di oppormi alla vostra, al vostro desiderio di sposare Irina. E quindi siamo venuti qua a riferire quanto accaduto, e anche perché diciamo che avremmo potuto fare altrimenti, ma c'è del sangue che neanche io voglio spillare. Spillare? È la scusa per cui non abbiamo fatto la guerra. Cioè non ho detto no, consegniamo Irina, uccido Vez. No, o provo a uccidere Vez, magari non ci dico. E alla fine, secondo me, secondo noi, visto anche che ci siamo dimostrati abili fino a questo momento, i nostri servizi potrebbero essere comunque utili in un modo o nell'altro. Senza dubbio, signor Atanas. Ma vede... Lord Atanas, grazie. Ma vede, senza dubbio l'abilità è importantissima. Ma la fedeltà. Non solo, è anche la volontà che è necessaria per condurre l'azione. Sì. E questa sera vorrei capire se voi siete in possesso di questa volontà. Non saremo qui se no. Oh, quello è infatti è un ottimo indice, ma non sono arrivato fin qua e non ho regnato indiscusso per centinaia di anni su queste terre senza aver imparato il valore della fedeltà. E se non sapessi leggere dentro le persone, letteralmente. Vedo che a pagina 5 c'è scritto: trova il tempio, prendi il potere e uccidi Strano. Richiesta ragionevole. Tuttavia, cioè, è una richiesta ragionevole, ma non ha senso. Cioè, no, beh, se mi dice tipo il motivo per cui lui fa quello che fa, io magari posso dire ci sta, lo voglio fare anch'io. Dovrebbe essere il contrario, tipo che lui ti comanda. Perché questo tipo così, tipo la FIFA? Siamo in trattativa. No, non ci sta, lei è completamente pazzo. Ma lo obbedirò comunque. È una tua facoltà. Vabbè, se lui, scusa, che se, fammi capire se lui può leggere dentro di te. Se tu gli dici, se tu non lo pensi, dici io ti sarò fedele, invece pensi sei un coglione, però gli sono fedele perché mi fa comodo, se lui legge nella tua testa, lo dici, sa. Ok, sei uno stronzo, ti ammazzo. Invece no, io se capisco perché lui lo fa, magari posso essere d'accordo. Non se gli fai un persuasion, dipende, se legge la mente me lo mette in culo. La tua richiesta infatti è perfettamente ragionevole, caro. O magari lui sarà veramente d'accordo con Strad. Infatti per quello lo è. È più probabile. Ormai dovreste aver capito che su queste terre grava da secoli una terribile maledizione. In effetti il nuovo nemico sono i poteri oscuri. La mia! Sono più malvagi e strani. Questa maledizione iniziò ormai 400 anni or sono, 5 più. Ormai gli anni passano come giorni, come sabbia tra le mie dita. Ah, nel frattempo rubate le bottiglie di vino che avete in giro, che possono farci comodo. No, scusa, quando usciremo in gloria trionfanti chiederemo delle provviste. Ok. Io sono stato maledetto perché ho amato troppo. Ho desiderato quello che non poteva essere mio. E per avere quello. Ma è vero, Salla non la sa la storia di Strado che abbiamo imparato la volta scorsa. Perché lui non c'era. Non c'era. Il suo personaggio lo sa. Comunque sì. La ripeterà. 400 anni fa. È stato rimandato a settembre. Sì. Ho donato un bagno. Conobbi questa donna, Tatiana. Tatiana. Ella era tutto ciò che desideravo. La sua presenza bastava a mondare la mia anima dalle pesantezze della vita che conducevo a dominio di queste terre. Nessuno sforzo e nessuna guerra era troppo cruenta se potevo consolarmi rimirandola. Ma fui cieco oltre che sordo. Ma quindi tipo Irina è doppelganger di... È la reincarnazione di Tatiana. Lei si innamorò di mio fratello più giovane, Sergei. Sergei. Si è innamorato di una donna. Si è innamorato di una donna. D'altra parte Sergei non era proprio innamorato di Tatiana. Infatti la cosa finì male. Lui era molto più caloroso di me. Ormai ero troppo indurito dagli anni passati tra i massacri e le guerre. Scelsero di convolare a nozze. Io fui felice all'inizio. Benedì la loro unione, pensando che era meglio così per tutti. Ma il giorno del loro matrimonio, la mia vista si annebbiò. E la mia gelosia, e il mio desiderio, la mia brama per Tatiana mi portarono a uccidere mio fratello. Bella roba. Sergei, più non ci sei. La rincorsi per i giardini del castello. Complimenti, congratulazioni. Tu pro! Eri felice? No, non ero felice. Io volevo confessarle quello che provavo per lei e farla mia per sempre. Okay. Lei mi rifiutò, eppur non perché gli ha ucciso il marito. No, il futuro marito. Ti vedo più come un amico. Cosa? Pur di non legarsi a me, si buttò dalle pendici del castello. Frezzonato. Molto più dezzonato. E in quel momento, nell'ora più buia, un gruppo di guardie decise di tradirmi. Approfittò dell'occasione assaltandomi per rubare ciò che negli anni avevo faticosamente conquistato in punta di spada. Le punte delle loro frecce trafissero il mio corpo. E quella fu l'ultima sensazione che provai. In quel momento un antico patto che avevo suggellato con delle potenze oscure venne esaudito. Io in quel momento morì, ma da quel momento in poi non sarei mai più potuto morire. Diventai... Ciò che porto non muoia mai. Diventai quello che sono adesso. Il vampiro. Un bellissimo uomo. Aspetta, lo sapevo già. Sebbene purtroppo non possa specchiarmi da molto tempo. Che bello. Ma è bellissimo. Ultimamente lui non lo sa perché non si può specchiare. Bello e stranissimo. No, non lo dico davvero. Sospiro. Con quei canini. Cioè, oddio, ha avuto anche dei consorti maschi. No, non miro tanto. Diventai il vampiro, il primo, l'antico, Diventai la terra. 400 anni. La terra. Da quel momento questa terra venne interdetta. Perché è diventato la terra e questa terra, quindi se stesso. Ah, si è interdetta. Venne interdetto il passaggio da chiunque volesse uscirne. Ah. A meno che è colpa di Garrosh. E ogni starnuto fu interdetto. Il potere che mi venne concesso andava oltre a qualsiasi umana comprensione, ma veniva a un prezzo. Io da questa terra 99. Sono condannato a non uscirne. Quindi 20 per mai. Le leggi. Ok. Quindi in compenso ho il potere di far passare chi desidero da dentro a fuori e viceversa. Nulla può uscire, comprese le anime che sono qui in eterno condannate, compresa quella di Tatiana, che periodicamente decide. Era solo Ade. Decide. Che periodicamente ritorna per tormentarmi ancora una volta. Io continuamente cerco di afferrarla, ma questi poteri oscuri mi impediscono di porre fine alle mie sofferenze. Poverino, soffre un sacco. Ma appena detto non può provare nulla, quindi in realtà... Esatto. Non può provare nulla, cioè, di fisico, però psicologicamente intendo. Cosa gli serve allora Irina se non può provare? Scusa. Ma scusa, quindi Irina c'entra che... Pezza, la benedizione. È la reincarnazione di Tatiana. E l'anima di Tatiana mi appartiene. Beh, come praticamente tutte le anime qua. Non è che le appartengono. Lui può decidere se lasciarle. No, non può, non so se può decidere se lasciarle. Comunque. Vabbè, restano nei suoi territori. La proprietà transitiva. A quel punto potrò dirmi finalmente in pace. Questo vi sarà sicuramente concesso. Avete la mia parola. Io mi trovo bene, però. Insight. Che brutta tosse. Oh, no, ma che bella idea! Ma che bello, no, non bravo. Puoi! Oh, bravo! Devi dirlo prima! Bravo! Ma che giocatore di ruolo! Ora, io mi trovo di fronte a una scelta gravosa. In questi secoli i poteri oscuri si sono divertiti in continuazione a strapparmela dalla presa. E distruggere questi poteri oscuri. Oh, questa è una cosa che va ben al di là delle nostre capacità. Ma sono convinto che si possa cercare di trovare un modo. Due, riusciremo, dove solo uno. La tua... È vero che lui può concedervi la libera uscita, come lo... D'altronde... Come ci ha fatto entrare. Lui entrare tra virgolette non è un problema. Ah, tutti possono entrare. Tutti no. Però è più facile entrare che uscire. Okay. Ad esempio, sapete che i Vistani, però, vanno tranquillamente dentro e fuori perché hanno un antico patto con lui. Ma invece il fatto che se lui sposa Irina torna in pace? Lui ci spera. Quindi per lui è vero, per lui è vero. Lui ci crede. Vabbè, allora ci sta. Però allora hai detto un però, è vero che quando? No, hai detto è vero che lui può concedere, però stai dicendo qualcos'altro. Perché Sal aveva detto se lo stava perculando. Quindi è vero che lui può concedere il non c'era un ma di uscire. Chiaramente lo può fare una condizione. Ah, vabbè, chiaramente è la condizione che Doubt Death. Chiaro. Ora, vi stavo dicendo che è una gravosa decisione quella che devo prendere. Le streghe devono uccidere, scusa. Vi dicevo che questi poteri vanno al di là dell'umana comprensione e sono in grado di annichilire interi mondi anche solo per un capriccio. Ma la loro legge è ferrea e viene seguita abbastanza fedelmente da quello che so. E io so, modestamente. Però abbastanza, non è totalmente. Questi strumenti, essendo estremamente pericolosi, possono essere utilizzati solo da mani sapienti. Per cui... Scusa, quali strumenti? Questi poteri oscuri. Ah, i poteri oscuri, ok. Se voi sarete interessati ad appropriarvi... Ha già la maglietta con I love poteri oscuri. Di questi poteri, per cercare di aiutarmi e risolvere la mia condizione, sarò ben felice di poterveli concedere. Ma dovrete dimostrarvi degni. E come probabilmente vi ha accennato il mio caro maggiordomo, nulla viene dato per nulla e tutto ciò che si desidera ottenere richiede un sacrificio. Mi scusi, signor dottor Conte. Dottor Conte. La scusa. Cioè, nel senso, senza poteri oscuri posso aiutarla a portare a termine la missione. Certo. Poi non c'è problema per me. Può tentare, signor Reis. Beh, ho capito. Ma appunto, come vi dicevo, l'abilità a volte non basta. A volte è necessaria la volontà. Potrò anche convincere magari i miei compagni a passare. Alla fine le sue richieste sono ragionevoli. Sono contento che lei la pensi così. Sono contento che lei la pensi così. Condivido in certa parte, cioè non importa che tutti abbraccino i poteri oscuri, anzi, basta solo uno. Si guarda le palle sta maledizione di merda, io so anche me. Anzi, sarà più facile convincere i nostri compagni senza doverli per forza ammazzare, si spera, se almeno una parte rimane non corrotta, non toccata da... Oh, ma no, ovviamente questo non avverrà in tempi brevi e solo se la vostra volontà si dimostrerà sufficientemente salda. Per adesso mi accontento di un pegno per suggellare la nostra alleanza. Più di quello che le ho già dato. Cosa gli hai dato? Ho perso 20 punti vita. Sì, non credo funzioni così. Scusi, lei quanti PF ha? No, perché io gli ho dato. In effetti potremmo chiederlo di rimuovere la maledizione, cioè di rimuoverci la punizione. Sarebbe bellissimo. A tal proposito, come vi dicevo, se desiderate migliorare la vostra condizione, alleviare la vostra pena, allora non dovete far altro che dimostrarvi degni e farmi un sacrificio di qualcosa che vi è caro, non importa cosa. Pensate a cosa sareste disposti a dare. Non valgo i compagni. No, è qualcosa che mi è caro. Adesso sono indeciso tra la bambola Gamora. No, che in realtà per il mio personaggio è importante, cioè nel senso è l'unico ricordo. Senti una vocina venire dalla tua tasca. Non mi abbandonare. No, giusto che vai così, pazzesco. Allora io in realtà, però dopo dai, gioca un po' gli altri, se no ho fatto un cazzo. Vabbè, scegliete questa cosa e poi passo la palla. Allora, e potete andare a letto. In realtà volevo fare due cose. Uno, dal sacchetto e dargli il sacchetto delle reliquie senza dare reliquie. Ah, perché lui in teoria le ha tutte. Sì, ha preso tutto con lei. Rubare una, rubare un'altra alla fine. Allora, e rubo un'altra reliquia. Gli altri due intanto hanno pensato a cosa sacrificare. Di fatto l'unica cosa a cui il mio personaggio tiene è la bambola. Ci sta. E niente, niente, c'è una collana che forse potrebbe essere un oggetto personale, però... Beh, io pensavo tipo di dovesse donare tipo una mano. Beh, se tengono la loro mano possono donare quello. Vabbè, ma cioè, sì, quello non, cioè, onestamente non è una cosa a cui il mio personaggio tiene la mano. Beh, oddio. No, gli serve, però se... Cioè, può farne anche... Cioè, non è una cosa che... Del resto, se è lanciato contro il mostro coso quando tu stai per morire, poi sei morto uguale, però... Va bene, allora io provo a prendere sta cosa. E ho fatto 16... Cavolo, qual è quello più difficoltà? È l'as. Cioè, il suo personaggio non ha... Dà una cosa... 20, una cosa lui ce l'ha. Una cosa ce l'ha in realtà, l'ha appena presa la cosa che ha. Allora, ho fatto 20. No, vabbè, fai quello che gli do il sacchetto e gli dico di io le dono l'accesso al 22 di rapidità di mano. Di mano. È vero, perché devi dimostrare che l'hai rubato. Esatto. Oh, le reliquie di Sant'Ambra non cambia niente, perché di fatto basta che tutte le reliquie siano fuori, che... o dovrei dire quasi tutte le reliquie di Sant'Ambra. Ma ti capisco, Reis. È durissima rinunciare a ciò che sei per diventare qualcos'altro. Va bene tutto, posso fare quello che voglio, non hai ragione, va bene, ti capisco. No, detto. Ma non ha detto. Non era questo il senso della frase, e tu non sei qui. E tu, Teresa, che importanza ha? Ho chiesto un sacrificio, ma in fondo è giusto, la tua natura è non sacrificare nulla. Ma è vero, no? Ma sì, mi avete tradito, ma in fondo l'avete fatto per salvare Irina. Non c'è niente di male, questo, è la donna che ha. Ma cosa? Quello che più tieni è proprio quello che hai celato. Sei disposto a darmelo in sacrificio? L'ultima reliquia. Mentale. No, è la tua personalità sostanzialmente. Sì, ho capito. Sì, rappresentato dall'ultima reliquia. Faccio un tiro su saggezza, tipo per autoconvincermi a farlo. Posturinata incredibile. Beh, tira una moneta a questo punto, scusa. No, devi far così. Non è una moneta, no, perché devo comunque un po' di forza di volontà, saggezza. Ma la tua forza di volontà va verso la direzione di rinunciare o la direzione di mantenere la tua... La mia forza di volontà va verso... No, allora, io voglio mantenerla, però se faccio una prova di volontà per dargliela... Ehi! Qui devi fare una prova di volontà e fallirla. Fai prima superarla. Fai prima un tiro... Vinci tu e quindi te la tiri. Fai prima un tiro di intelligenza per capire su che razza... Vabbè, io invece guardo la tua la volontà, il tuo istinto è di darmi. Questo è l'unico mio legame col passato. Se fallisci di la fatto volontà... è l'unica cosa... Ma non dovresti fare un tiro di volontà, dovresti scegliere. Che... in base al tuo personaggio. Scoprire il mio passato. Molto questo prezioso. È la mia conoscenza ancestrale. La conoscenza ancestrale non posso darla. Cioè, di fatto il tiro sulla saggezza che intendi tu è per se il tuo personaggio si rende conto che sarebbe una grandissima cazzata. Sono dargli. Colpito. Sì. È una cosa estremamente preziosa per te. E capisco. Cosa gli hai dato che sia la bambola. Capisco che sia duro separarsene, ma è sempre duro. Ogni cambiamento richiede sofferenza, ma la ricompensa sarà Gli sta mettendo la prova. La ricompensa sarà molto più grande delle perdite che hai subito. Vieni qui. Ti mette una mano sulla spalla e senti il tuo costato riprendere vigore e recuperare la giovinezza di un tempo. Rimuovi i tuoi punti negativi. Non mi ridà anche la forza. Hai ragione, ti ridà anche la forza. Mi tolgo la costituzione, però me la tengo. Falso. Non te l'ha tolto. Cosa te l'ha tolto lui? Mi aveva tolto la forza, mi aveva dato la costituzione perché mi ero autoaccusato. Te l'ha dato la costituzione. Ok, ritorni alla tua condizione di partenza. E cos'hai scelto, Race? Ho l'ultima link, però da adesso non rubo più. Oh. Quindi ritorno a come ero prima di incontrare Rami. Tue condizioni normali. Poi mi dispiace avere il 18 anni. Cioè non sei più cleptomane. Esatto. È molto apprezzato. Molto apprezzato questo gesto. E questo è quanto avevo bisogno da te. Riprendile pure. Non servono più. Cioè, se mi ricordo una puntata di... A te avevo chiesto di cavarti un occhio, hai capito? No, sicuramente. Però, Salla sperava di recuperare i punti feriti, mi sa. Ma non hai detto che adesso non gli metta la mano anche a lui? Sì, sì, dipende, sì. Glielo chiedi o preferisci tenerteli per fustigarti? Gli avevo chiesto prima, gli avevo detto se... Cioè io l'aiuto anche senza oscuri poteri, basta che mi muove la maledizione. Ma ormai... Questo, cioè, ti è concesso... Ma il plauso di strada è molto superiore a ogni punto una misera. Questo è sicuramente vero. Però ti è concesso di aver espiato così la tua pena. Falso. Oh, bisogna ricordarsi di non farsi più curare da Vez, però. Adesso li curo tutti. Venite! Anch'io ho un punto negativo. E io non posso curare. Vi curerò in nome del vostro padrone. Strada. Non gli viene tolta la costituzione a Darci? Sì, gli viene tolta. Sì! Oh. Ah, perché le aveva assorbite da lui. Fake. Perché agisce? Vabbè. Fanculo. I miei punti. I miei punti. Scusami, ma la costituzione è diventata anche a lui. E infatti sono tornato come ero prima. Ma gli hai tolto la costituzione, ma perché dovrei perderla, Arci? Perché io ho ripristinato la forza. Arci aveva succhiato dei punti da lui. I miei due punti di forza erano andati a Darci dicendo mettili dove vuoi. E quei due punti di costruzione da chi erano stati tolti? Nessuno, quello era stato un premio a cazzo. Era un premio per essersi autoaccusato. Per aver fatto una contestazione. E ora Arci invece con Irina. E improvvisamente avrà la costituzione 18 al posto di 20. Lei sappiamo tutti benissimo che non se la cambierà mai. Quindi cambiamo la nostra. Cambiamo noi. Bayern, adesso, dimmi. Adesso lo dico un maiale. Allora, ti dicevo, anche io faccio. Dov'è la mia storia? Sulla storia. La storia. Anche a me sembra normale. Una sembrata con bui o. No, non è forse. Cioè, la storia della sua vita, dici tutto il racconto che vi ha fatto? Sì. E come sono andate le cose? Va bene, allora. Stando così le cose, essendo io per ora sul neutrale, Facciamo passare al malvagio. Metto in gioco la parte del dominio che riguarda lo scalzamorti. Ok. Ah, giusto, mi è venuto in mente adesso. Tu hai fatto un riposo breve insieme al gingillo che ti avevo dato. E quindi, come gli oggetti magici che richiedono la sincronia, ne capisci il funzionamento. Avrei potuto dirtelo prima, effettivamente, mi scuso. Cliccando sul tasto... Allora, Play uccidi Strad e diventi il nuovo signore di Barovia. Il simbolo sacro è un amuleto che racchiude in sé del potere sotto forma di cariche. L'amuleto completamente carico possiede 10 cariche e al funzionamento ottimale ne recupera un di 6 più 4 ogni alba fino a 10. Ti avere questo amuleto che per essere utilizzato richiede la sincronia da un chierico o da un paladino di allineamento buono, ti permette di utilizzare le seguenti azioni. Ho sentito, c'era Vez che faceva il suo numero. E ti permette di usare le seguenti azioni. La prima è blocca vampiri. Good. Come azione puoi spendere una carica e mostrare il simbolo sacro per farlo brillare di potere sacro. E i vampiri e le progenie vampirica entro 30 piedi dal simbolo devono fare un tiro salvezza sulla saggezza di CD 15. Se lo falliscono sono paralizzati per un minuto. Che ironia, vedi? Ero un Poi tra l'altro, scusa, Lady Vatcher aveva tipo il modo di uccidere Strade. No, aspetta, non ti ho detto tutto. Fammi finire. Ogni turno ripetono il tiro salvezza per cercare di finire l'effetto. Poi, scacciare non morti. Se tu hai la capacità di scacciare non morti o scacciare il sacrilego, il male, puoi spendere 3 cariche per mostrare il simbolo mentre lo fai. Se lo fai, i non morti hanno svantaggio ai loro tiri salvezza contro lo scacciare. Terzo effetto, luce diurna. Come azione puoi spendere 5 cariche per mostrare il simbolo sacro e farlo brillare in un raggio di 30 piedi come luce brillante e altri 30 piedi come luce fioca. Sarà una gran mossa tornare da Lady Vatcher a prendere la mulina. La luce dallo Strad. La luce conta come luce solare e dura per 10 minuti o finché non decidi di terminare. Era l'arma per combattere Strad. Esatto, era veramente ora, magari là adesso la sguinzaglia. Quando, come ti dicevo, hai avuto l'impressione quando l'hai preso che l'amuleto fosse scarico. Quando hai finito il riposo breve, le cariche erano a zero e non sembravano volersi rigenerare. Quando hai cominciato a salire la scala chiocciola di questo castello, è andato a negativo. No, ha cominciato a pulsare come se tu avessi un secondo cuore nel petto. Immagino tu lo tenga al collo, boh. Dove lo... Nel culo. Era... Nella borsa, no, ho detto perché io ho la collana. Ok, hai un secondo cuore nella borsa. E man mano che salivi le scale, sentivi come se si caricasse, come se aumentasse il potere, e adesso ha una carica. Bene, detto questo, dimmi pure. Ha una carica adesso. Adesso ha una carica. Ah, no, ok, niente, ne servono 5 per la luce di uno. Se no era figo, pow, adesso in faccia a Strad, però. No, mi ha cambiato fazione. Già. Come discorso, comunque, anche conoscendo questa cosa, ci sta il discorso che ho fatto prima, anche se è comunque un sacrificio, perché, allora, essendo neutrale, posso metterlo in gioco, direi, e vabbè, sì, da parte dello scherzo non batto, l'ho venuto via. La bolletta non lo nomino. Quindi non ho capito che cosa vuoi fare. Lui mette in gioco il suo potere scacciare non morte. Rinunciare al direttamente alla tua, al potere divino che ti viene concesso dalla tua divinità, che non so quale sia. Neanche lui lo sa. Neanche tu lo sai. C'è nemmeno la base del chierico. Beh, però Strad adesso può può pregare Strahd, quindi comanda non morte. Questo è un sacrificio che va molto oltre a quello che pensavo di ottenere da voi e sono piacevolmente sorpreso. Penso che lasciargli il medaglione rinuncia a soscacciare non morti. Ma appunto la tua decisione è più drastica di quello che pensi tu, caro Byron, perché questo vorrebbe dire rinunciare a tutto il potere che ti viene concesso dalla divinità, ma io ti posso assicurare che se lo farai sarà sostituito con un altro potere equivalente ma di natura diversa. Non voglio che tu prenda... Si fa i cavalieri dell'apocalisse a questo punto. Non voglio che tu prenda questa decisione avventatamente, perché comporta delle conseguenze molto gravi e molto serie da affrontare, e non voglio che metta a repentaglio quello che è la priorità, ovvero il mio ricongiungimento. Intanto la riprendo, vai per un attimo da loro, poi ti dico come sto lì adesso. Non ho capito. L'avevo letta diversamente la cosa. La riprendo e intanto vai un attimo da loro e ti dico tra un po' quando vado a rileggere sul manuale. Ma che cosa avevi pensato? Non ho capito. Che è la parte dello scherzo, ovviamente sì, è parte del dominio, ma non al dominio in sé. Solo quella lì. Dell'essere chiari. Diciamo scacciare i non morti. Sì. E basta. La stella in sé, no? Chiaro, e appunto, e lui ti dice, non posso... lui sostanzialmente ti dice: non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca, ti posso permettere di cambiare tutto il dominio, compreso quello, per cui pensaci, perché è una scelta molto drastica e non vorrei che la cosa mettesse in difficoltà la situazione che c'è adesso con Irene. Va bene, intanto che ci pensate, voi altri arrivate alle porte di Crefa. Facciamo il classico, ancora un quarto d'ora, 20 minuti. Sì, che mi interrotti. Se non mi addormento. Coraggio, adesso vedrò di svegliarti, deludendoti il più possibile. Kresk, salgo di livello? No, ho detto deludendoti. Non sarei deluso in questo modo. Se fosse salito di livello così presto. La città fortificata. Avevo trovato una bellissima immagine, molto pittoresca. Non c'è tempo, ma questa immagine. Cosa? Davanti a voi vedete una cinta muraria di pietra, non come Vallacchi. Questa è proprio, insomma, una, non dico una fortezza, ma almeno una città fortificata, ecco. È stata costruita ai piedi di questa montagna. Ma Kretz, che è dentro Barovia comunque. Sì, è qua. È quasi al confine. Ed è stata costruita alle pendici di questo monte, sul quale a sua volta è stata costruita l'abbazia. Quindi voi vedete la cinta muraria e sopra, che torreggia sulla città. Dimmi che il passaggio per la cima del monte è questo, porca puttana. No. Il monte del tempio non è qua. No, uno dei passaggi in filastrocca è prendere in cima al monte. Cioè, spero che non sia questo. C'è Monte Gacchi, cazzo. Monte Gacchi se da un'altra parte. Oh, chi ha tutto il potere? Spero chi che la cima del monte non sia questo, porca troia. Ma quindi se voi noi provassimo a, diciamo, sconfinare Barovia, cosa succederebbe? Che non riusciremmo? Tu ti ricordi cosa ti è successo quando sei entrato nella nebbia? Agli irti colli, più vicinando Sara. E ti soffro. Ma sotto il maestrale... Ah no, è sotto il maestrale. Soffio che biancheggia il mare, proprio come dicevo. Biancheggia il mare. Arrivate dalla vecchia strada di Svalic, appunto belli, fradici e chi è anche bello inzuppato di fango dopo che ha fatto una frog splash nella melma. E questo è l'immagine della porta d'ingresso. Ci sono due torri e i camminamenti. I cecchini cominciano a sparare appena c'è. Oh, sembra una fortezza vera. Sembra una fortezza vera e propria. E sopra vedete la vista, questa non si capisce granché, ma questa è più o meno la vista dell'abbazia che sta sopra la città. Va bene, arriviamo al portone. Arrivate al portone. Aprite i cancelli! Allora, sopra le torrette ci sono due arcieri e sulle mura ci sono quattro guardie, due e due nei muri adiacenti e un arciere, come vi dicevo, in ogni gatehouse, bastione, immagino sia. Come vuole appunto la tradizione, quando vi avvicinate la guardia vi urla: alto là, chi va là? Aprite i cancelli! Questo non risponde alla mia domanda. Alto là, chi va là? Fermi a sparo. Siamo qui per cercare rifugio nell'abbazia. I tempi sono scuri, vi prego, lasciateci passare. I cancelli sono chiusi per ordine del borgomastro, nessuno può entrare. Andate via. Uccidiamo il borgomastro! No, scusa, non c'è solo l'altro posto. Il tavolo sarebbe letteralmente portineria, quindi non so. Come? Sarebbe portineria. Che cosa? Gatehouse. Gatehouse, portineria. Cioè, hanno il portinaio qua. Allora, aspetta. Beh, allora chi? Siamo in fuga dai nemici della fortezza. Siamo esuli della città di Vallachi, caduta in mano a forze oscure recentemente. Cioè, prego, cerchiamo asilo, non lasciateci qui alle intemperie e all'oscurità e ai lupi. Persuasion! Porco! Aspettateli! Adriale Persuasion! Vabbè. Su un attimo. Dica. Allora, qui sotto, quello che ti dicevo, infatti, era questo qua che intendevo, non so se va bene come cosa. Il dominio divino è quello che ho scelto. Sì. E quello che ti dicevo è sulle cene di Lindy. Era quello lì che toccavo. Ok, quindi tu vorresti... Vorresti perdere Channel Divinity? Sì. Appunto, dato che il tuo potere ti viene concesso da una divinità, non è che puoi dire, sì, vabbè, perdo un pacchetto. Che il Channel Divinity, come tutto ciò che usa il chierico, sia incantesimi sia capacità di classe, gli vengono concessi dalla sua divinità per, insomma, aumentare il suo potere. Quindi non è che puoi dire, vabbè, perdo un pezzettino e tengo il resto. O tutto o niente. Allora, se metti questo adesso... Tu ci pensi e mi saprai dire la prossima volta. Oppure puoi pensare a un'altra cosa a cui tieni da offrire. Comunque, sentite la guardia che vi urla, aspettate! E poi entra dentro e sentite sbraitare comandi: ehi tu, inutile sacco di patate, vai a chiamare il borgomastro, renditi utile. Ah, sì io. Signore, no. Certo, prego, no. Fatemi entrare, lo chiamerò. Sta urlando ad un suo sottoposto. Viene fatto chiamare il borgomastro e vedete affacciarsi dagli spalti e questo cade. Vecchio pelato che vi farò vedere. Ah, Irina rimane coperta. Allora no. Irina è ricoperta di fango. Anche. Chi è quella negra? No, è veramente solo fa. Tra l'altro sarà anche più il lacrime, perché è un altro destino. Vabbè, sì, è il lacrime. Vabbè, ma con la pioggia non si vede. È completamente scosso. Conoscete il Baron Kratzkov? Il barone Kratzkov. Beh, lo uccidiamo, aspettiamo. Cioè, il vostro alleato migliore. Ok. E arriva su anche lui che andrà dalle scale prima o poi. E vi dice: per ordine del borgomastro, che sarei io, a nessuno è concesso l'ingresso a Kretzk durante la notte. Fantastico. Vi prego, disperdetevi. Perché non abbiate? Perché questa comunità è in pace e tale dovrà rimanere. Sì, sì. Fate centrale la città, sarà più che sicuro. Come possono pochi Vallachi. Esuli? Andate a chiedere a Vallachi. Pochi esuli in fuga disperata dalle forze oscure a turbare la forza di questa città dove noi cerchiamo riparo. Proprio come dici tu, sventurato amico. No, proprio come non dico io. Le forze oscure da cui voi fuggete vi staranno cercando e non voglio certo attirarle nella mia città. È che ha ragione, ecco, come cazzo facciamo? Ha ragione lui, cioè. Come mi verrebbe da dire, vabbè, vecchio, hai ragione, andiamo via, cioè. Sarà molto più facile del previsto. In tutto il reame si parlava del coraggio e dell'ardire della fortezza di Kresk, ultimo baluardo di civiltà. Ma vedo che erano solo voci false, evidentemente. Hai ragione, arrivederci. Gatta. Che bello. E beh, erano in strada, sono tipo Antidoro. Avete ragione, che carini, che bravi che siete. No, ma i tuoi dubbi li capisco. Immagino, la tubi che fa strada. Tomoro li capisco. Può portarsi così. Vabbè, altrimenti c'è... Tra l'altro, esatto, città super fortificata, quindi non si riesce a lanciare... Quattro sfigati, poi mezzi forti. Chiedete asilo all'abbazia. Abbiamo detto che vogliamo andare all'abbazia. Siamo qui per l'abbazia noi. L'abbazia è dentro la città. Non possiamo, chiedi se ci fa parlare col prete, padre, abate. Con l'abate. Nino, Ignazio. Neanche il nome di padre, come si chiamava quello? Lucianovic. Lucian. Ma non è lui che ci ha detto dell'abbazia. Pace all'anima sua. Non è lui che ci ha detto dell'abbazia. Neanche il nome di padre Lucian, quel buon uomo che ha difeso fino all'ultimo la sventurata comunità di Vallachi. Anche a lui direte no. Non ridere almeno, dai. Scusa, mi piace che si scava sempre di quella fossa. Già in passato altri avventurieri sono venuti a questa porta. Sia che siate nemici del maligno, sia che siate suoi alleati, porterete pericolo nella mia comunità. Il mio volere di signore è quello di mantenere la pace e la sicurezza della mia gente. Promettiamo di stare il meno tempo possibile per poi fuggire di nuovo. Solo una notte di ristoro vi chiediamo. Volete veramente entrare? Beh, sì, sacrificate qualcosa che vi accade. Volete davvero entrare? Ma non so. Abbiamo appena fatto 3 ore di cavalcata incessante seguiti da... non te lo dico. Va bene, se proprio ci tenete, allora portatemi un'otra di vino. Vaffanculo! Vaffanculo! Vaffanculo! Bellissimo! Devi morire! Bellissimo! Devi morire! Questa è la cosa più bella. Salla, hai sentito? C'è proprio scritto così. No. Prendete un vagone di vino. Un vagone? Sì, wagon load è il carro. Un treno merci di vino. Dov'è il coso del vino? Dobbiamo tornare a Vallachis. No, era dopo Vallachis. Ah, vabbè, qua. Non Vallachi, il mago delle vigne. Che è sarebbe il mago vicino, dei vini, ma mi suona meglio il mago delle vigne. È qua. Cioè, a un'oretta sarà. Ok, allora. È da giorni che aspettiamo una consegna e qua siamo ormai a corto. Se accoglierete veramente la quest del vino ci un paio di nostri ospiti, vi porteremo tutto il vino che volete. Che un paio, l'elfo viene con noi. Che dove risano. Pensa di andare l'elfo? No, no, sti cazzi, il vino sarà lasciate almeno portare questa stanca donna all'abbazia e poi vi porteremo tutto il vino che vorrete. E io che penso il fratello. Persuasion. Questo persuasion. 20. Cos'è lui? Almeno lei. Leviamoci dal cazzo. Barboni di merda. Vino! Oh, sì, io non so. È finito il vino! Cosa hai detto? Volete proprio entrare? Allora mi porti il vino. Vino! Geniale. Che cazzo è lui, porca troia? Il barone di merda, lo sai. Borgomastro. Noble. Come sa del vuoto? Maestà del vuoto, tu sei Rob. Chi ti ha messo questo nome? Vostra maestà. Sei Rob. Allora va e riempilo. Vedo! Sono sempre più allegra alla festa. Mai so. Vedo! Vedo! Quanto fa? 20. No, cioè. È troppo tardi per dare un'inspiration. Sì, che bene. Risate, che risate che noi ci stiamo facendo la strada. Ovviamente non vi rimane molto altro, no, aspetta. Vabbè, andiamo a prendere il video sul serio. Ci sblocca la quest, ci sblocca tutto. Ho capito, ma sono a zero su tutti i livelli. Ragazzi, cioè, abbiamo scelto il team giusto. Cioè, almeno gli voglio lasciare il video, poi noi andremo a morire all'interno di questo vino di merda. Vabbè, Oh, potete aspettare, no? Vabbè, se no ce la portiamo indietro, al massimo anche... Cosa non sei? Non lo so, no, adesso beh, chiediamo cosa, se ha qualche magia. Vediamo se vi può aiutare. Kevin. Per ucciderlo. Veramente, vuoi uccidere il barone? Non siamo neanche entrati in città e uccidiamo Silvio. No, magari avevamo un giochino per portarli in terra. Fai buoni, gentili, eccetera. Questo è almeno il borgomastro così, cioè... No, alla fine, cioè, per colpa loro è morto il borgomastro di Vallachis. Vallachis. Ma hai ucciso la moglie a sangue freddo. La moglie, non il borgomastro. Sì, è solo perché ormai il borgomastro era morto. Li ho fatti riunire. Era un atto misericordioso. Il ragazzino avresti ucciso anche lui. Però si è suicidato facendo un teletrasporto. Il ragazzino si è suicidato. Arrivo. Ha sbagliato a fare il teletrasporto. Dove stai? Però lo sappiamo. No, sappiamo. Sei morto, dico. Ah, ha usato un cerchio di teletrasporto che era sbagliato. Però non puoi sapere come è andata a finire. Vabbè, se è vivo non vorrei essere nei suoi panni, diciamo così. No. Sei vivo e vivo in due parti del mondo. Quanto manca all'alba? Io suppongo che adesso siano verso... Se era metà notte, quando eravamo ancora là, sono passate tipo 3-4 ore. Di notte. È quasi l'alba ormai, però non dipende che ora sorge il sole. Massimo... Sa inverno. È inverno? È autunno, cazzo, da qua è sempre autunno. Autunno per sempre qua. Vediamo se mi pare... 3 ore. 2-3 ore. Ma ragazzi, massimo ci mettiamo proprio davanti alla porta, speriamo che... prima dell'alba, ammesso che a questo punto vi apra anche all'alba, perché tanto nel momento in cui capito, avete la detto, sua legge è che non ci può aprire di notte e all'alba che vale per tutti. Poi ha detto avventurieri, sia che siate nemici sia che siate amici di strada, ma non siamo avventurieri, siamo degli esuli di però gli hai detto che eravamo in fuga. Non c'è più vino. Non è proprio avventura, siamo degli esuli. No, nel senso che lui non vuole che entriamo perché comunque qualcosa ci sta inseguendo. che non vuole che questa cosa. Ma dite che il barone... E diciamo che forse gli hanno passato una voce da Vallacchi, perché effettivamente. No, Vallacchi adesso è una città sicurissima. Non ha tutti i torti, no. Quindi non ci farà entrare neanche domattina. No, potevate dire che il borgomastro di. Del villaggio di Barovia si era sacrificato per mettervi ad arrivare fin lì. Oh, l'unica. Fammi pensare. E se. Kevin? Sì. Ma come Kevin mi risolve la situazione? Meno male. Si mette. E voi avete strato, noi abbiamo Kevin, ognuno dei suoi, eh. Beh, onestamente ci abbiamo vinto. Tanto lì, ormai c'è vai da parte. No, voi non potete giocare in questo posto. Il vino. Basta, buona. Cioè. Cloppete, cloppete. Gli altri gli hanno dormito da lì. Poi la spada mi trafigo. Oh. Usavano la servitù. Oh, sì. Finalmente. Gli altri che usavano la servitù altrui come la loro. No, io prima ho chiesto a Lady Wagner. Sì. Non vedo l'ora che muoia il mio personaggio. Sarà una liberazione. Una liberazione. Ti ricordo che in questa terra la morte non è una cosa. Sì, sì, ma personalmente per me, lui povero, okay. Ma per me sta. Mi dispiace. Comunque, dopo, lui proprio farà la reincarnazione del barone che fa le feste e le leggi per fare. Il più malvagio dei malvagi. Proprio che vada a stare e gli dice: ma cos'è questa? Questa posizione di malvagità. Questa morbidezza. Sotto le mura e fa look at my eyes, look at my eyes, okay. E dice non sono questi i droni, è sicuro tenerci per anche solo una notte, poi potremo andare a prendere tutto il vino che vorrete. È sicuro tenervi solo per una notte, poi potrete andare a prendere tutto il vino che vorrete. Vaffanculo. Sì, direi che va bene, vi si spalancano le porte. Ma era quello che avevo detto. Ma non hai usato un incantesimo. Non hai fatto non hai fatto charm o qualcosa del genere. Ho un incantesimo old person. Fermo. No, misty step. Quello per trasportare sì, potevi andare in poteva andare in faccia e dare un ceffone. Zitto. Giù. Oh, questo ci sta. Oh, ma ci sta un casino. Basta. Il vino basta la prenda. Ed era perfetto perché dopo saresti morto. Probabilmente uscito dalle guardie, quindi tornava tutto. No, lo potevo in berserk. Basta. Vi concedo di dirmi in anticipo che sorte volete dare al vostro personaggio in caso di dipartita. Se avete delle preferenze. In che senso? Cosa stai dicendo? Se per caso doveste morire, come preferite che. Che succeda? No. E cosa succede eventualmente dopo la vostra morte? Cosa vuol dire? Che moriamo? Qua la morte, ti ho detto, non è una. Rimarrà l'anima vagante. Cosa vuol dire? Ci sono molti modi in cui può rimanere. Ah, dei non no, voglio che cosa vuol dire? Come suo servetto. Va bene. Cioè come me stesso va. Lo capirete. Comunque provate a pensare. Ade non ha mai detto niente. Certo, sceglierò io, però se avete delle preferenze sono disposto ad ascoltarlo. Ma perché stai facendo questa domanda? Se non proprio così nella merda. No, in realtà non mi sembra così nella merda, però non si sa mai. Vabbè, riusciamo a entrare? Sì, le aprono le porte. Ok. E con questo. Ah, vuoi chiudere così? Oh sì, a meno che. Sì, dai, sono le 11:30, sì. Se ci agganciamo un'altra diventa lunga. A meno che. Perché solo la descrizione dell'abbazia si fa a mezzanotte. C'è proprio quello che nel senso che è chiaro che se agganciamo un altro discorso diventa lunga. Chiudiamo in questo modo. Con l'asco entrate... di cosa deve sacrificare? No, quello lo fa. Voglio che ci dormi. Ah, con calma. Con calma. Allora, non farmi scherzi. Possiamo avere degli incubi da cavalcare. Potete avere gli incubi tutta la notte quando dormite. No, da cavalcare. L'avete già visto voi, Bucefalo. Appunto, visto che sappiamo che ci sono. Ce n'è uno. Assolutamente. Voi l'avete visto uno. Quando stai via, quando sei via, quando parto. Partono lunedì prossimo. Domenica. No, domenica, sì. Torno lunedì. Cioè Pasqua, domenica di Pasqua. Ritornate, scusami? Lunedì 22 stasera. Allora, mi sa che due settimane saltiamo. Sì, io sono via dal 21 al 28. Dove vai, Ivan? A Lanzarote. Perché non mi provo? O riusciamo a trovarci dopo il 29? Io fino al 2 sono in ferie. Quindi infrasettimanale. No, 2 ricominci. 2 ricominci. Però no, finisco questo venerdì, quindi dal 19 al 2 non è mai. Dal 19 al 2. Allora, vabbè, tanto pezzo da dire. Facciamo l'uno per il tuo compleanno. L'uno ha tutti i compleanni della mia famiglia, tutti. Ma che tutti l'1 maggio. No, lo festeggiamo. Però è festivo e li festeggiamo quel giorno lì. Anche prima non riusciamo. Una mega festa riunita. Tutti gli anni. Di tutti, no, di tutti, di tutti. Sono tipo 10 anni che lo festeggiano i compleanno. C'era una festa gigantesca. Il 30 lavori. Minchia, torni lunedì sera e vai a lavorare martedì mattina. Martedì lavoro e l'uno è festa. No, perché sennò se non lavoravi. Ah, oggi a momenti volevano togliermi le ferie. No, se non lavoravi, perché pensavo agganciassi direttamente al turno di due. Che bello, se no ti proponevo di fare il 30. Che sono dei coglioni. Allora, vi permette di entrare in questa città, in questo villaggio fortificato, che è molto più piccolo. Vi faccio l'ultima scenetta, l'ultima cinematica, che è molto più piccolo rispetto a Ballachi, però più difeso, sebbene il numero delle persone sia inferiore a quello che servirebbe per riuscire a controllare per bene tutto il perimetro delle mura. Gli mancano delle guardie, ecco. Che conquistiamo anche questa città. E vedete, in poche parole, in realtà anche a Vallachia erano poche le guardie in proporzione a come era il paese, quindi se dici che sono ancora meno le guardie sono... erano tra virgolette poche, ma voi non l'avete visto perché non c'è stato bisogno, e potevano comunque contare su una leva secondaria di cittadini addestrati, diciamo, per ogni venienza. Sì, almeno avevano i numeri dalla loro. Questo invece vi dà l'impressione di essere come una comunità, una comune. Vedete questa serie di casettine con il loro orticello, la stalla dove tengo gli animali. Proviamo questa più bella. Come se potessi prendere Vallachia. Vabbè. Tecnicamente è nostra, fatto. Però abbiamo deciso di darla alle di Vattar, ma attraversato l'inno di Gretzky. Era comune. Attraversate appunto questo villaggetto carino e simpatico. Comunque soffocato, non dalle nebbie perché sta piovendo. Sotto questo cielo. C'è la nebbia anche con la pioggia. Arrivate in questa zona delle mura dove trovate una fonte, diciamo, con una piccola. Non proprio una cappella votiva, ma una specie di santuario, diciamo. All'estremità nord del villaggio c'è questo luogo che, insomma, sembra molto più tranquillo e in pace rispetto a tutto ciò che avete visto finora. E sulle sue rive c'è un piccolo gazebo molto mal ridotto e sembrerebbe che al prossimo sventagliata, al prossimo soffio di vento, dover collassare, però resta ancora in piedi. E c'è una statua di in legno di una donna in sofferente, e ormai la pittura che c'era sulla statua si è consumata e si è sbiadita. Mm-hmm. E sta sotto questo gazebo con le sue braccia protese, come se volesse essere abbracciata. Vedendo l'acqua, Irina dice: vado a rassettarmi e a togliermi di dosso. Vediamo questo fango. Tempo stai in apnea. E si avvicina così alla fonte. Queste simbologie ci dicono qualcosa? Madonna sofferente, ci accendono qualche lampadina? Un tiro di religione. Allora, something blue. Ok. S4, giusto? Grida amore toccata dall'acqua. Cosa? Ok. E voi cosa fate mentre lei si avvicina alla religion su questo luogo? Mm-hmm. S4 6. Ma posso provarci anch'io? Sì, tanto potresti fare scuole di PDB. 19. Stupido paladino, non riconosci che questa è una fonte santa che è stata benedetta da San Marcovia in persona. Vuoi non saperlo? Non l'avrebbe detto. E le sue acque purificano il corpo e lo spirito, ma questo ve lo può dire anche il caro Kevin. E la donna? C'è la statua invece. Cosa rappresenta la statua della donna? Purificalo? Aspetta un attimo. La statua della donna è una rappresentazione di una simbologia sacra che, insomma, cioè, tipica legata... di Santa Marcovia, che era appunto una forte protettrice del bene, che in passato si oppose a Strad, e è lì per, diciamo, consolare chi vuole, chi è ferito nello spirito e nel corpo. Irina si avvicina alla fonte. Sì. Vuoi andare anche tu a bere? Sì. Vabbè, anche okay. Io. Andate a bere alla fonte. I vostri PS negativi? Quello si devo verificare. perché chiunque beva dalla fonte per la prima volta ha i benefici dell'incantesimo ristorazione minore. Che cosa fa ristorazione minore? Dei mostri. Ponte strada, ma la ristorazione deve essere ristorata. È vero che c'è una formale sopra, sta guardando il cellulare. Sì, ma quella è poca roba. Less restoration. Speravo qualcosa di più. Less restoration. You touch a creature che. The condition can be blinded, deafened, paralyzed or poisoned. Togliere vabbè. Condizioni accecato, assordato, paralizzato. Ah, ma ci vedevo anche prima. Niente di quello che abbiamo. O avvelenato. Quando Irina raggiunge il limitare della fonte, una fonte marcisce, un'immagine appare nell'acqua blu illuminata dalle torce che ci sono. Una figura di un uomo bello, Palo, giovane e dal viso nobile. C'è tristezza nei suoi occhi che sparisce nel momento in cui pose il suo sguardo su Irina. E chi era? Strad? No, il fratello. Kojolovic. Il fratello di Strad. Sergei. Tatiana dice: è passato così tanto tempo. Vieni, amore mio. Riuniamoci alla fine, finalmente. Sì, brava, vai dentro l'acqua, stacci. Irina trasale e porta una mano al suo cuore. Mio amato Sergei, in vita fosti un principe e un uomo di fede. Dovevamo sposarci molto tempo fa. Questa fonte sacra ha richiamato il tuo spirito a me, e mentre si avvicina al pelo dell'acqua, una mano esce e fa per prenderla. Iniziativa. Ah no. Che figo. Ma noi lo vediamo tutto questo. Sì, siete lì, cosa fate? Beh, io mi, cioè, mi guardo la scena, stupito. Non intervengo assolutamente. Aspetta. Oddio. No, il mio personaggio non pensa che no, io per invece sono timoroso. Tengo da parte Irina e gli dico... Fai due o tre tic dei tuoi, mi sembra un momento buono. Non aspetta. No, metto da parte e faccio... No, Irina. Nessuno di noi è ancora bevuto, quindi non l'abbiamo fatto in tempo. In questo luogo ciò che è morto non ci abbandona, ma il passato è ormai andato. Ok. E dice, vaffanculo! A questo punto penso di venire con noi da strada. Come si gira, ti guarda e dice, ma non hai neanche il vino, vai la... Non avresti potuto diventare una guardia nera, vedi? La mano appunto torna a fonda di nuovo nella fonte e l'immagine di Sergei sfoca fino a scomparire mentre lui urla il suo nome. Tatiana. E si dispera. Urla Irina o Tatiana? Urla Tatiana. Irina? Irina è alquanto scossa. Come se non bastasse. Ti abbraccia piangendo. Aver perso due fratelli in una notte. E aver rivisto il suo amato. Così c'è proprio un'ammazzata di Irina. Per la prima volta l'ha visto. Ah sì, no, hai ragione. Però non so se il suo spirito... Comunque lei adesso si... lei diciamo che è consapevole, si è risvegliata, ha detto appunto dovevamo sposarci tempo fa. Sì, giusto, infatti quindi sì, sì. La strada non sarà contenta di questa cosa, come per dire. Faccio giusto un tiro, non so se sai tu cosa sarebbe stato più scontento se gliel'avesse permesso. Oh, Metz, ti puoi spendere ancora dei punti con Strad. Cosa? Perché? Posso fare solo un tiro? Perché il fatto che tu hai impedito ai due tizi di toccarsi... È lo spirito di... Oppure è stato positivo per Strad. Porca puttana, non tu mai visto prima. Che sfiga, no, a parte quello, ma se potessi... Cioè, riconoscere... se possa essere o meno una trappola, un inganno, non ne abbiamo idea. Io ci ho pensato che fosse una roba pericolosa, onestamente. Può darsi. Ho pensato che fosse veramente lui, però nessuno dei due può. No, è lui, però è tipo lo spirito, quindi... la sua anima è rimasta qui come quella di tutti. Però rimarrete per sempre con questo dubbio. Lui è morto prima della trasformazione di Strad. Esatto. Quindi... secondi, praticamente. Però in teoria... C'è la maledizione caduta dopo la morte di Sergei, anche se di pochi secondi la sua anima... Sì, la sua anima è imprigionata qua solo da 400 anni, non saprà. No, l'hai capito. Lui diceva che si era liberata. Evidentemente no, quello pensavo... Quello che avete visto ti ha rivelato il contrario. Essendo morto prima, pensavo che non fosse caduta. Bene, e con questo rimandiamo e prolunghiamo le sofferenze di Irina ad un'altra. Ma quindi tu lei allontanate dicendo no, sei già promessa un altro. No, io le così. No, perché lei e oggi abbiamo stabilito in maniera definitiva qual è la parte giusta, quella conveniente. Lei non è Tatiana, quindi quello che ha impedito a Irina di raggiungere la pace. Cioè, dal mio punto di vista bisognerebbe spezzare tutto questo circolo. Cioè, se tu potevi vedere tutta sta campagna. Invece cioè dopo ci sarebbe rimasto solo da distruggere tutta la terra. No, infatti non devo farci, cioè, il mio personaggio deve essere tipo Laz, passivo, così tipo, sarei un chierico o così oppure ancora meglio così. No, deve essere passivo, cioè trattare lì, male il boss che ti risponderà. No, io il boss l'ho trattato bene, sì. Sono tutti gli altri. Tratto bene il boss e il vice boss, tutti gli altri sono merda. No, vabbè, comunque riprendiamo. A me non sembrava un'idea così brutta. Se poteva stare. Dai, ne parliamo. Un paladino della morte, giusto? Esatto. Sì. No, vabbè, non così tragica, intendo. Però non è tragica, è benissimo. Ma basta, cavaliere dell'apocalisse, ragazzi. Distruggiamo tutto. Adesso... Ma sì, ma là, sarei anche a tua divinità. Non l'ho mai incontrata la mia divinità, quindi poco male. Anche io ho pensato in multiclassare paladino, ma non mi conviene. Francesco Arcidiacono, uomo bello, giovane, dal viso nobile. Mi avete chiamato? No, non stavo guardando World Wide Bonanza. Bonanza. Anche perché Arci è già lì. Chissà se si è collegato quando gli abbiamo detto che ha perso il suo bonus. Gli abbiamo scritto. Beh, non gli hai proprio scritto che ha perso il bonus. Vabbè, non più. Vabbè, glielo scrivo. Raga, tanto ripeto. No, ha scritto lui 18 sì, sotto il 20. Sì, sì, ma tranquilli. Rimarrà 20 per sempre. Avrà sempre 20. Vabbè, tanto tanti punti ferita glieli tengo io, quindi sto qua. Non vi preoccupate. Va bene, detto questo, vi ringraziamo per averci seguito. Avete visto il 14esimo episodio della maledizione di Katta, dove giochiamo all'avventura di Dungeons versione 5.0 di Strad e Amici. E qualcun altro tenterà di giocare, come chiedi tu, che hai postato il link su Facebook che fanno le giocate. Ma nessuno le giocherà bene come noi. Esatto. Vabbè. E niente, vi diamo appuntamento ai prossimi episodi che seguiranno probabilmente da maggio in poi. Intanto vi auguriamo una breve pausa. Pasqua. Buona Pasqua. Pasqua. Pasqua di buon 25 aprile, buon mio compleanno. Buon stradale. Strada regna. Ciao. Strada regna diventerà